Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Una trasmissione interamente autoprodotta da una redazione di attivisti e attiviste che non si offendono se li appellerete asini, pantegane, vacche, maiali, vipere, scarafaggi. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnini. Questa puntata è dedicata al coccodrillo recentemente ucciso allo zoo di Tunisi con una sassata. Non sappiamo che nome avesse, non sappiamo nulla della sua storia. Di lui resta solo una foto che mostra il sangue, il sasso e il corpo senza vita di quello che doveva essere un fiero animale pieno di vita, residente in qualche fiume tropicale. Invece è andata così, è morto tra le sbarre dello zoo Belvedere di Tunisi, dove è stato ucciso a sassate dai visitatori. Dopo che le foto del povero animale sanguinante sono state pubblicate sulla stampa di Mezzomondo, si sono levate voci di protesta e gli stessi cittadini di Tunisi hanno chiesto la chiusura di quel luogo fatiscente che versa in condizioni di degrado, con gabbie e vasche piene di spazzatura. Per noi di Restiamo Animali non esiste uno zoo modello, non esiste uno zoo accettabile. Auspichiamo che gli zoo si convertano in rifugi dove ricoverare animali ormai nati in cattività, che non è più possibile rimettere in natura, senza pubblico pagante, senza sfruttamento per il profitto, i cui spazi dovranno essere il più possibile adeguati alle caratteristiche e alle esigenze etologiche e individuali di ogni animale ospite. In questo senso possiamo ricordare che in Italia il 3 marzo scorso, giornata internazionale della natura, 9 associazioni, tra cui EMPA, il Rifugio degli Asinelli, Italian Horse Protection, LAV, Lega Ambiente, Lega Nazionale per la Difesa del Cane, l'IPU BirdLife Italia e WWF Italia hanno firmato la Carta di Roma per il recupero degli animali salvati non a fini di lucro e hanno scritto a Gentiloni, Galletti, Lorenzin e Bonaccini per denunciare il ritardo colpevole dello Stato su questo tema. È necessario un nuovo quadro normativo per il riconoscimento e la promozione dei centri di recupero e i santuari degli animali, tutelando e rendendo effettiva la loro funzione di interesse collettivo. Dalla Carta di Roma alle Tigri di Carta, la rubrica curata da Lorenzo Guadagnucci, che analizza la questione animale attraverso la lettura dei grandi quotidiani cartacei e online. Sentiamo. Tigri di Carta, rassegna stampa altro animalista. Sui quotidiani dei giorni scorsi campeggia la notizia della scomparsa del professor Danilo Mainardi, etologo di fama internazionale e conosciuto soprattutto per la sua attività divulgativa svolta principalmente attraverso la televisione ma anche attraverso la carta stampata. Mainardi ha fatto conoscere gli animali a moltissime persone in tono amichevole e con bonarietà ed è questo lato che evidentemente piace ai grandi media che si trovano più a disagio quando la vicinanza con gli animali viene formulata attraverso anche una critica sociale e politica forte. Sul Corriere della Sera, giornale con il quale Mainardi collaborava, il professore ha ricordato con un articolo di Paola D'Amico intitolato «Il pioniere dell'etologia in Italia ci ha insegnato a rispettare gli animali. Iniziò bambino allevando piccioni viaggiatori. In questa stessa pagina è ospitato un ricordo di Piero Angela che portò Mainardi in TV a Super Quark, il quale, appunto, dice, svelava i segreti di cani e scimmie senza fanatismi. Analoghi titoli su altri quotidiani, ma vogliamo riportare qualche brano dell'articolo scritto da Roberto Marchesini, etologo ben conosciuto agli ascoltatori di Restiamo Animali, sul quotidiano Il Manifesto, un articolo intitolato Un viaggio nella mente degli animali, rispettando la loro natura. Scrive fra l'altro Marchesini, oltre all'opera dello studioso, va riconosciuto a Danilo Mainardi il forte impegno per la difesa della natura e per il rispetto degli animali, essendo stato presidente onorario della LIPU e dichiarandosi contrario all'impiego degli animali nei circhi e in alcune tradizioni come la corrida. In nome di un riconoscimento pieno dell'autenticità di ogni specie, Mainardi ha sempre stigmatizzato le forme di antropomorfismo banale e di matrice disneyana, rimarcando tuttavia la continuità fra le specie e attribuendo ai fattori culturali e all'intelligenza un significato adattativo non esclusivamente umano. Nello stesso tempo ha sostenuto, senza mezzi termini, la validità degli interventi di pet therapy in una logica di rapporto stringente con la natura. Nel solco della tradizione etologica tracciata da Konrad Lorenz, anche Mainardi ha sostenuto che occorresse correggere la visione miope dell'antropocentrismo per affrontare i grandi problemi ambientali dell'età contemporanea. Un interessante approfondimento è quello offerto dal Corriere della Sera del 4 marzo, Il cane in affitto. Si paga a ore oppure si riscatta l'animale a rate. Le critiche trattati come beni di consumo. Di che si tratta? Ce lo spiega il titolo di questo servizio da Washington di Giuseppe Sarcina, cuccioli in leasing o noleggiati via app. Costi ridotti e impegno dimezzato. Si tratta di una startup fondata nel 2014 da Lion Berkeley, un australiano trapiantato a Los Angeles. Si chiama Bark & Borrow, che ha 70.000 iscritti. Funziona come un sito per incontri. Le foto sono degli animali prestati dai padroni a tutte le persone che non possono comprarne uno o che non hanno uno spazio dove tenerli. Gli affiliati versano una quota mensile che parte da $4.99, possono prendere gratuitamente il cane in prestito anche per una mezza giornata, lo portano al parco, si divertono, poi lo restituiscono. Tutto qui, senza impegno. E poi Sarcina racconta anche di altre agenzie che affittano esemplari di tutte le razze a prezzi variabili, per non dire ovviamente della vendita dei cani di razza. In un prospetto grafico si riportano alcuni esempi del valore attribuito a questi animali. La cifra più alta, veramente impressionante, è 1,4 milioni di euro pagati in Cina nel 2014 per un esemplare di mastino tibetano, un animale che viene definito così, è amatissimo in Cina, dove è considerato uno status simbolo e un portafortuna per chi lo possiede. La razza discende dai cani da caccia delle tribù nomadi del Tibet. Poi c'è il Cavalier King, Charles Spaniel, 14.000 euro, Lowchen, 7.500, Eschimese, 6.800, Akita, 4.200 e più modestamente il Bulldog, 2.800. A questo si è ridotto il cosiddetto amore della specie umana per i cani una volta che ha incontrato il mercato. Concludiamo segnalando un genere di articoli che forse è quello più interessante che si trova abitualmente sui quotidiani, cioè gli articoli di scienza riguardanti magari l'etologia. Ne prendiamo uno dalla Stampa, l'inserto Tutto Scienze del 1 marzo, dedicato alle formiche. Il titolo è Un po' di zucchero e pochi neuroni e la formica batte ogni robot. Questa mente alternativa ispira nuove strategie automatizzate. Di questi animali, così poco conosciuti, si dice fra l'altro che le formiche costruiscono città, organizzano delle vere e proprie stanze solo per i neonati, comunicano in modi sofisticati, fanno uso di speciali tecniche per la gestione dei rifiuti e pianificano anche battaglie con altri gruppi di formiche, seguendo strategie ben precise. Tecniche e strategie raffinate se pensiamo a insetti lunghi appena fra i 5 e i 14 mm. E qui si capisce davvero quanto poco conosciamo gli esseri viventi che condividono con noi questa curiosa avventura sul pianeta Terra. Tigri di carta, voliamo verso la civiltà della carta, voliamo in Giappone, la patria dei Neko Caffè, da Neko che in lingua giapponese significa gatto. Si tratta di caffetterie tematiche, la cui principale attrazione è quella di permettere ai propri clienti di osservare e eventualmente giocare con i gatti. Ecco, in Giappone, non contenti di pagare per poter accarezzare gatti, adesso a Tokyo è stato aperto un Owl Café, un caffè dove gli avventori possono accarezzare e giocare con uccelli rapaci che restano animali selvatici, anche se si riproducono in cattività. Ogni occasione è buona per sfruttare gli animali, perché di sfruttamento a scopo commerciale si tratta. Nonostante gli sforzi di camuffare questo sopruso sotto le vesti didattiche e di sensibilizzazione alla natura, sono state molte le proteste di associazioni giapponesi che si occupano di protezione degli animali. La domanda di base, secondo noi, dovrebbe essere questa: ne abbiamo il diritto? E la risposta, ovviamente, è un secco no. Un no rapace. Gatti e coniglietti non bastano più. Adesso vanno di moda i rapaci. Noi siamo all'antica. Da piccoli abbiamo letto La collina dei conigli di Richard Adams, un libro che ha fatto diventare molte persone sensibili verso questi animali. Non riusciamo a capire come ancora qualcuno riesca a mettere in pentola i conigli, anche perché ormai dopo cani e gatti i conigli sono diventati i terzi animali da compagnia in Italia. E infatti anche l'associazione LAV ha dedicato a questi animali una campagna che si intitola Coraggio Coniglio. Andatevelo a vedere in rete. Ai conigli è dedicata la rubrica Speriamo che sia vegan di questa settimana. Una rubrica di libri dedicata ai bambini che amano gli animali, curata da una bambina molto speciale, Agata, e dalla sua mamma, Roberta. Sentiamo qual è il libro che propongono oggi. Speriamo che sia vegan. Letture per bambini che amano gli animali. Finzione, come il film di animazione Galline in fuga. Realtà, come R7, la coniglia, la cui storia viene raccontata nell'opuscolo Sperimentazione sugli animali, perché no, di Oltre la specie. Il libro Coda rotta, scritto da Tim Bruno, è un racconto a metà strada tra questi due mondi e dove il limite lo stabilisce il giovane lettore più che l'autore stesso. Esistenza animale, solidarietà sono i temi portanti di una storia che è prima di tutto e comunque la storia di un fuggitivo, come si legge nel retro di copertina. Un evaso, un ribelle che vuole sottrarsi a quella fine cui l'animale umano, il lunghe dita come viene chiamato sempre nel racconto, l'ha destinato dalla nascita, l'allevamento da carne. Ma 51 scopre l'inganno e non ci sta, sa che c'è qualcosa oltre Conigliopoli e le sue gabbie, così un giorno decide di scappare per andare alla ricerca del paradiso dei conigli che ha sempre sognato. Ehi, che stai facendo? Me ne vado di qua. Te ne vai? E dove? Non lo so. Sei sicuro che sia quella l'uscita? Non sono sicuro di nulla. Secondo me non te ne vai. Si è aperta! Lo sapevo! C'è qualcosa oltre le pareti di Conigliopoli. Accidenti, se n'è andato davvero. Nella sua fuga travagliata tra travi di metallo e mostri fischianti, agguati di volpi e continui pericoli, 51 incontra quella che sarà la sua compagna di avventure e con lei inizierà la nuova vita di Coda rotta. Come ti chiami? 51. 51? Che razza di nome è? Era il numero della mia... Non mi piace, ti chiamerò Coda rotta. E tu come ti chiami? Mirtilla. Ma se Mirtilla è pronta ad accoglierlo a Tanras, non altrettanto sembrano esserlo gli abitanti di Sottobuco, perché temono che Coda rotta sia in realtà una spia della terribile banda dei conigli di Covo Nero. Vengo da Conigliopoli. Conigliopoli? Nessuno l'ha mai sentita nominare. Conigliopoli esiste, ve lo assicuro. E dove si trova? Io ho camminato a lungo tra le sbarre di ferro. Poi è arrivato un mostro fischiante e sono caduto nell'acqua. Mi sono svegliato fra le creature che dormono in piedi, una accanto all'altra. Ho incontrato la volpe e Mirtilla mi ha... Il tempo passa e per Coda rotta e i suoi nuovi amici è arrivato il momento del freddo e morbido bianco manto. Ma i lunghe dita che continuano a tormentare 51 nei sogni sono un incubo nella realtà. Scappando dalla banda di Covonero insieme a Mirtilla, improvvisamente sentono abbaiare un cane di un cacciatore e mentre fuggono qualcosa lo intrappola. Vieni! Non ci riesco. Oh no! Non è un ramo! È un laccio di lunghe dita! Non si può tagliare! No, fermo! Se fai così si stringe ancora di più! Non ce la faccio! Quando riapre gli occhi, Codarotta si accorge di essere di nuovo in gabbia. Ma niente paura, al di là delle sbarre, stavolta non ci sono gli allevatori di conigliopoli, ma il tenero viso della piccola Sofia. Mamma, si è svegliato! Ti ha portato un po' di fieno. Mamma, come fanno a trovare da mangiare i conigli quando c'è la neve? I conigli selvatici sono molto furbi e se la sanno cavare anche in inverno. Possono mangiare perfino la corteccia degli alberi, però questo coniglio... Io non credo che sia un coniglio selvatico. I conigli bianchi sono molto rari in natura. Deve essere scappato da una conigliera. Lo potrò liberare lo stesso quando sarà guarito? Non credo che saprebbe sopravvivere da solo. Allora lo posso tenere qui con me? La vita nella casa di Sofia è piacevole. La bimba lo coccola e ha cura di lui. Ma l'incubo di Conigliopoli torna nella mente di Codarotta e così fugge per la seconda volta. E nella fuga scoprirà che i suoi compagni di sottobuco sono in pericolo. Dobbiamo tentare qualcosa per liberarli. E cosa? Non posso correre né scalciare. E se anche potessi, ci vorrebbe un intero esercito di conigli per scalzare quei mangiasterco da là sotto. Un esercito di conigli, hai detto? Un esercito di 1000 conigli! Aspettami qui. Tornerò con il più grande esercito di conigli che tu abbia mai visto. Così, 51, ops, Codarotta, torna da dove era partito, là dove tutto era iniziato, a Conigliopoli, dai suoi compagni, ancora prigionieri, dei lunghe dita. Per tutte le orecchie di Conigliopoli, sei davvero tu, 51? Certo che sono io. Hai visto il paradiso dei conigli? E la palla di luce? E... Calma, calma, vi racconterò tutto, anzi, lo vedrete con i vostri occhi, ma dobbiamo fare presto. Vuoi dire che... Ce ne andiamo tutti! Salta, salta, coniglietto, salta, salta, sei perfetto, se te solo troverai, non se ne divertirai. Un, due, tre, un, due, tre, salta, salta, sei perfetto. Codarotta, di Tim Bruno, illustrazioni di Carlo Prati. 144 pagine a partire dai 7 anni, costo 12 euro, Nord Sud Edizioni. Oh, tratta certo di coniglietti, ma di leoni dello spettacolo. Ci riferiamo a EPU, un gruppo musicale italiano che ha fatto la storia della musica leggera del bel paese. Ne parliamo perché poco dopo il concerto conclusivo della carriera cinquantennale di questa band, uno dei componenti, Red Kanzian, ha ultimato e pubblicato un libro insieme a sua figlia, Chiara Kanzian. Si tratta di un libro che ci interessa perché è dedicato all'alimentazione vegan. I due sono in tournée presso le principali librerie italiane e cercheremo di intercettarli per un'intervista. E per essere all'altezza di Red e Chiara Kanzian, il tosco vegan chef Gabriele Palloni ci proporrà una ricetta musicale. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Qual è la prima cosa che faccio quando entro in cucina? Lavarmi le mani. No, quello lo faccio prima di entrarci. Assicurarmi che tutti gli ingredienti necessari siano al loro posto? No, acqua. Controllare che per una qualsiasi congiunzione astrale mi abbiano staccato il gas? Siete ancora lontani. La prima cosa da fare prima di iniziare a preparare qualsiasi ricetta è avere la certezza che ci sia un qualsiasi strumento tecnologico in grado di diffondere musica. Nessuna ricetta potrà mai riuscire bene se non accompagnata dalle note della vostra playlist preferita. E dal canto suo, la musica ha spesso omaggiato la cucina e i suoi ingredienti con mille canzoni. Dalla pappa al pomodoro di una giovanissima Rita Pavone, alle bontà elencate come uno scioglilingua da Mina, ma anche gli eterni campi di fragole dei Beatles o lo smarrimento dei Clash nel supermercato. Ma la ricetta che vi racconto oggi è dedicata a due grandi, istrionici, folli, irriverenti, ma soprattutto geniali artisti italiani, Gaber e Iannacci. E mi permetto di omaggiare la loro fetta di limone con la ricetta della mia delizia al limone. Una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone nel tè. Voglio 100 sacchi nel grano per gli intappi, dei regali a mucchi. Sei ricca ma sei sciocca, per me sei troppo secca, per questo non mi tu. Ingredienti per una tortiera da 26 cm di diametro sono: per la pasta 250 g di farina 00, 20 g di farina di riso, 130 g di margarina, 100 g di zucchero di canna, un cucchiaio di succo di limone, un pizzico di sale, vaniglia, un pizzico di lievito per dolci, un pizzico di curcuma in polvere. Per la crema 400 ml di latte di soia, 100 ml di panna vegetale, della vaniglia, 100 g di zucchero, 30 g di amido di mais, una scorza di limone, un pizzico di sale. Infine per la gelatina, il succo di un limone, 20 g di amido di mais, un cucchiaio di zucchero e un pizzico di curcuma in polvere. Preparate la pasta per la base del dolce, mescolando in una terrina tutti gli ingredienti, cercando di lavorare il meno possibile con le mani. Stendete l'impasto su un foglio di carta forno a mezzo centimetro di altezza e mettetelo nel fondo di uno stampo a cerniera. Fate riposare in freezer per almeno 30 minuti. Togliete dal freezer e cuocete in forno a 160 gradi per 20 minuti. A parte, preparate la crema. Mettete il latte di soia in un tegame assieme alla panna, l'amido di mais, lo zucchero, la scorza intera di limone, un pizzico di sale e la vaniglia. Portate ad ebollizione a fuoco lento mescolando con una frusta. Quando inizierà a sobbollire e addensarsi, togliete dal fuoco. Levate la scorza di limone e versate sopra la base di biscotto e lasciate raffreddare almeno 30 minuti, fino a quando sarà ben densa e compatta. A questo punto preparate la gelatina al limone. Unite il succo di limone all'amido di mais, lo zucchero e un pizzico di curcuma in polvere e portate ad ebollizione a fuoco lento, mescolando con una frusta. Quando inizierà a sobbollire e addensarsi, togliete dal fuoco e versate sopra la crema. Lasciate raffreddare nuovamente e servite decorando con una fetta di limone, una fetta di limone. Un Un'altra croccantissima notizia riguarda il circo con animali. Sembra infatti che il circo con animali sia in estrema difficoltà nel nostro paese. Una recente indagine svolta dal Censis, che per la prima volta ha raccolto e analizzato dati economici e stime disponibili su questo comparto, mostra una marcata flessione del numero di spettacoli circensi. Siamo al 10,9% in meno dal 2010 al 2015, quindi il numero di spettacoli, che era 17.100, è passato a 15.242. Anche il numero dei partecipanti, cioè degli spettatori, seppure in modo minore, registra anch'esso dal 2010 al 2015 una riduzione. Si parla del meno 5,1%, passando quindi da 1.155.000 a 1.096.000. L'indagine anticipa l'auspicata approvazione della riforma sullo spettacolo dal vivo contenuta nel disegno di legge 2287 bis del governo. Determinanti sono state in questi anni le tante battaglie animaliste, sensibilità e scelte che spiegano la forte disaffezione del pubblico verso gli spettacoli con animali. L'entità dei contributi destinati alle sole attività circensi, se si confronta l'ammontare del 2015 con quello del 2010, è caratterizzato anch'esso da una diminuzione del 9,3%. Mentre l'Italia è purtroppo ferma a una norma di 45 anni fa, la legge numero 337 del 1968, che consente l'uso di tutti gli animali nei circhi, moltissimi stati dell'Unione Europea e del mondo hanno già proibito totalmente o parzialmente l'uso di animali nei circhi e in qualunque altra forma di spettacolo. Su 28 stati dell'Unione Europea, più della metà hanno già introdotto legislazione in materia. A livello internazionale, l'ultimo paese a introdurre una proibizione dell'uso di animali esotici nei circhi è stato il Messico, nel gennaio del 2015. Per molti anni ha vissuto nella vasca di un tempio buddista nella città di Srirachha in Thailandia e per anni i turisti thailandesi e non hanno buttato in quello stagno decine e decine di monetine portafortuna. Quando lo scorso mese la tartaruga ha iniziato ad avere gravi problemi di salute e a malapena riusciva a nuotare, è stata portata alla clinica veterinaria dell'Università di Bangkok. Dopo una radiografia, i medici hanno scoperto qual è il suo problema. La tartaruga, che si chiama Omsin e ha 25 anni, aveva ingerito molte di quelle monetine. L'animale è stato operato e dal suo stomaco ne sono state tirate fuori quasi 1.000. Non ho mai visto niente di simile, ha spiegato al Bangkok Post il veterinario Pasakorn Brikshanava, che ha raccontato che l'operazione sulla tartaruga è durata ben 7 ore. È impressionante la foto della tartaruga dopo l'intervento accanto a una montagna di monetine. Un altro, potremmo dire l'ennesimo, dannoso effetto del denaro e della superstizione. Occidentali scarma. Occidentali scarma. La scimmia siria. Anche questa settimana siamo alla frutta, ma prima del caffè ricordiamo che se siamo andati in onda è stato merito di Lorenzo Guadagnucci, Agata, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e la mitica Camilla Lattanzi. L'appuntamento con Restiamo Animali è tra una settimana esatta a meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.